e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Deborah, buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci qua. Siamo già a mercoledì. Sai che ci ho dovuto pensare un attimo? Volano, eh? Guarda. Anche se sono i giorni della ripresa, forse saranno anche i consigli dei nostri esperti, un po' di cuore, un po' di denari. Chissà se qualcuno ha già perso qualche centimetro di giro vita conquistato faticosamente quest'estate. Magari balla un pochino l'anello, Si è smagrito il dito. La ciambellina dell'amore. Senti, tanti consigli, tanti suggerimenti, oggi ho un indovinellino per te. Dai, allora, cominciamo così stamattina. Allora, dimmi. La sua particolarità è quella di essere estremamente audace, sensibile e al tempo stesso è molto legata agli affetti familiari e soprattutto un'amica fedele. Sì. Ti suona qualcosa? Mi sembra una gatta. Potrebbe essere dipinta in questo modo. Vero, potrebbe essere una gatta, direi che invece è una bipede. E questo... Allora no, sto scherzando, perché nel significato del grande del libro dei nomi, il significato che ti ho appena letto è quello del tuo nome, Deborah. Ma dai! Sì, vuol dire tutte queste belle cose qui. Ma senti un po', Nicoletta, l'hai cercato? Sì, è anche carino, ti devo dire. Cosa dice? Insomma, dice che ha un'amica molto carina, che si chiama Deborah. No, dice che segue, coinvolgente, fedele, insomma, delle cose abbastanza carine. E allora, io invece no, guarda, a proposito di Deborah, grazie per avermi dato questo nuovo significato che viene attribuito al mio nome, perché ne conoscevo un altro. Sapevo che fosse di origine ebrea, una sacerdotessa ebrea, che significasse ape operosa, però devo dirti che quasi quasi mi piace di più il significato che hai trovato tu. Beh, però d'altra parte guarda che in un certo senso coincidono, perché l'ape simboleggia la donna perfetta, operosa, coraggiosa, senza considerare che l'ape è anche un insetto indispensabile. Senti, all'ecosistema cosa ambientale. Cosa me ne farò di tutte queste qualità? Dove le metto? Non ho più spazio. Vogliamo poi tra l'altro adesso ti chiamerò ape, perché i nomi corti sembra che acchiappino di più. No, guarda, tu chiamam... Cioè, io avevo pensato Ugo. Come tuo padre? Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché così io voglio venire più educato. Ma perché Massimiliano? Massimiliano viene scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano... I sente sempre, se Massimiliano sta vicino a mamma, su voglio, e si muove per chi è a qualche parte. Ah, mamma, prima che lo chiami, tu, Massimiliano! Guardiamo già che io sto addosso che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, lui lo chiama Ugo, lui come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere, Ugo, guardiamo, non aveva nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza. Ugo, ape, ti chiamerò così, sei subito perché qui. Così obbedisco subito alle tue richieste, ai tuoi desideri. Uno splendido Massimo Troisi in Ricomincio da tre ci aveva visto lungo, perché le ricerche confermano che chi ha un nome facile da pronunciare, pensate, raggiungerebbe addirittura migliori posizioni di lavoro. Però anche nella parte di cuore sembra che, sai che si dice chi si somiglia si piglia, sembrerebbe che nomi uguali, sai, Carlo con Carla... Maria Deborah, non c'è, io non mi sono sposata un Nicola. Comunque che le coppie con nomi simili funzionano di più. Allora, tutto questo per invitarvi a raccontarci, anche se volete, al 349-238-6666 se siete soddisfatti del vostro nome, se pensate, come dicevano i latini, nomen omen, se il vostro nome in qualche modo vi ha agevolato oppure vi ha creato un po' di imbarazzo, troppo lungo Massimiliano. Sì, c'è anche chi lo cambia addirittura, il cognome magari qualche volta viene richiesto all'anagrafe il cambiamento quando è imbarazzante. Tu l'hai cambiato oggi da Deborah, pensa. E anch'io lo cambierò da Nicoletta, Nico, non lo so come. Comunque voi scriveteci, raccontateci, potete anche intervenire all'800 24 00 24. C'è un nome adesso che noi vogliamo sentire. Cos'è? Rassegna stampa, denari, borsa, brava, che cos'altro? Per capire come va, se va su, se va giù. Un paio di notizie economico-finanziarie prima di dare il via al nostro approfondimento di oggi, una puntata monotematica sulla scuola, quindi mamme, papà, l'ascolto, mi raccomando, non perdetela, perché parleremo a 360 gradi di questo argomento che è praticamente all'ordine del giorno dell'agenda della famiglia. Facciamo l'appello. Altro che, esatto. Allora, per quello che riguarda però gli appassionati anche di mercati finanziari, dico che oggi la seduta in Europa è positiva. Abbiamo Parigi che guadagna lo 0,26%, Francoforte lo lo 0,28, Londra è sulla parità, Milano più 0,37%. Ieri c'è stato un dato non positivo sull'andamento del settore dei servizi americano, e questo però nonostante il dato sia stato profondamente deludente, il mercato americano ha chiuso invece in positivo, e questo perché ancora una volta a questo punto la comunità finanziaria scommette sul non rialzo dei tassi di interesse americani a settembre. Tutto probabilmente verrà rinviato addirittura a dicembre, e quindi questo al solito è l'elemento che piace al mercato. A Piazza Affari i migliori titoli di questa mattina sono Enel più 1,64, STM più 1,44, Yuxen Net-a-Porter più 1,10, Banco Popolare più 1,03%, Tenaris in rialzo di un punto, poi un bel gruppo di titoli in progresso dello 0,7%, sono Fiat, A2A, Moncler, Poste Italiane e Ferrari. In negativo invece abbiamo stamattina Unicredit, perde 2 punti, UbiBanca meno 1,40, Telecom meno 1,24, abbiamo un calo di un punto per i titoli che ieri sono cresciuti di più, Pop Milano, Unipol Sai, Unipol, Azimut. Sempre per quello che riguarda i mercati, ricordo anche che giovedì torna a riunirsi il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, il secondo incontro dopo il referendum in Gran Bretagna che ha portato alla Brexit. I mercati si aspettano nuove mosse da parte dell'istituto guidato da Mario Draghi per contrastare un trend dei prezzi sempre difficile, sempre a ribasso. E però gli analisti sono divisi. È possibile che il Consiglio si muova annunciando un nuovo quantitative easing, oppure magari amplierà o modificherà un po' quello già esistente. Comunque potrebbe anche essere che la BCE rimandi tutto a dicembre, perché l'economia dell'Eurozona sta mostrando una marcata resistenza al previsto shock da Brexit, quindi tutte le ipotesi sono aperte e noi siamo in attesa appunto di questa importante giornata che commenteremo in diretta anche con Investire Informati. Giovedì, che peraltro sarebbe domani, quindi io sto parlando di questa giornata come se fosse fra un anno, invece è domani. L'ultima cosa che voglio raccontare delle notizie di denari, Nicoletta, è una notizia che ti piacerà molto. Vediamo, perché? Sentiamo. Allora, il cambiamento climatico minaccia gli investitori che devono agire per tutelare i propri investimenti. Un allarme, quindi soldi e cambiamenti climatici, risparmio e cambiamenti climatici. È un binomio nei confronti del quale anche noi non ci eravamo mai azzardati, ma adesso ci toccherà farlo, perché è un vero e proprio allarme quello che lancia il fondo di investimento BlackRock. Gli investitori, dice il colosso americano, non possono più ignorare il cambiamento climatico. È un tema profondamente sottovalutato, perché è considerato un problema lontano. Lo ha detto appunto uno dei manager di questa società in un'intervista al Financial Times. Gli investitori, nel valutare i propri investimenti, dovrebbero tenere in considerazione l'uso di combustibili fossili e di acqua, ma anche delle emissioni di anidride carbonica, quindi fondi di investimento verdi. Magari ne parliamo presto. Mi piacerebbe molto. Benissimo. Allora, e mi piacciono tantissimo i messaggi, ne stanno arrivando veramente. Sui nomi che tantissimi, dicono? Alcuni molto divertenti. Ad esempio, tu l'avevi mai sentito un nome Chiaralice? È un nome lungo e viene sempre storpiato, ci scrive la nostra ascoltatrice, ma mi piace tantissimo. Un bacione. Patrizia ha sposato Patrizio e ci ha scritto al 349-238-6666 e le loro mamme si chiamavano tutte e due Olga. Ah, è stato un problema con nostra figlia Nicole distinguere le nonne, e perciò le chiamavamo una nonna di Pippo, perché avevo un cane che si chiamava Pippo, e l'altra nonna di Incredibile. Charlie. Guarda, tu degli intrecci pazzeschi, cioè, Massimiliano. Invece, esatto, signora, scusami, un'ascoltatrice che voleva telefonare, non riusciamo a farla ad intervenire su questo tema, però la salutiamo. Si chiama Orvieta. Ma ci racconta che hanno sbagliato quelli del comune, doveva essere Orietta, ha sempre sofferto per questo nome, da qualche anno invece è rivalutato. Adesso lo... no, c'è Orvieta da Savona. Ah, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa. Orvieta, qua. Meno male che non ha sposato un signore di Orvieto, sennò era ancora più imbarazzante. Uno scioglilingua diventava. A me piace Orvieta. Sì. Ma sì, perché no? Sicuramente è originale, Io l'ho sempre sofferto, anche perché me l'hanno sempre i miei genitori presentato come un errore. Brava, è questo forse che ha fatto la differenza. Invece, infatti, certo. E tra mio padre e quella del comune c'è stato un qui pro quo e non so bene cosa sia successo. Magari suo papà era talmente emozionato di avere una bambina, di essere diventato papà, che gli è andato un po'. È come quello che è successo a me. Diciamo che era la terza figlia, quindi. Vabbè, comunque lei dice forse più disperato che emozionato dopo altre figlie. Infatti, quando avevo 18 anni sono andata in comune piangendo, sperando che di riuscire a cambiare il nome, e mi hanno detto invece che non c'era possibilità, che bisognava rivolgersi al Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera. E invece vabbè, il cognome comunque, si può fare vero, da quando ho iniziato a lavorare sia. Io avevo chiamato anni fa per ringraziarvi, perché grazie a una vostra puntata sugli esami avevo seguito tutto, in particolare mi ero fatta chiamare con un altro nome sinceramente, però grazie a voi anche avevo superato un esame e adesso ho un buon posto, fortuna. Brava Orvieta, parte subito il libro, dai. Guarda, sì, immediatamente è già in volo, arriviamo, esatto, anche noi. Grazie dai, Orvieta. Che ti seguo, sono veramente dipendente solo da Radio 24 io. Meno male, è una dipendenza salutare. Esattamente. Dai, comunque grazie. Da quando ho iniziato a lavorare, anche perché davanti all'ufficio ho Orvieta, mi chiamano la Orvi. Ma è carino Orvi. Orvieta ormai. Veramente adesso sono orgogliosa, non lo cambierei più. Brava. Infatti. Allora Orvieta, l'amica di Cuore Denari. Bene, grazie Orvieta. Buona giornata, grazie per aver chiamato. No, io stavo pensando che invece il quesito ricorrente che mi riguarda è Deborah, ma è con l'H finale o senza? Deborah. Il mio è senza H e dico sempre, Deborah, colpa di mio papà, io sono nata alle 4 del mattino e è andato all'anagrafe presto di fronte ad una, come dire, situazione, chiaramente magari quello dell'anagrafe gliel'avrà anche chiesto, mettiamo l'H o no, lui però lì era presto, che cosa poteva sapere, era troppo emozionato. Senza H. Continuate a scriverci i vostri nomi, vi piacciono o non vi piacciono, avete qualche nome da suggerire? Pancrazio, salvaguardiamo il nome Pancrazio, ci scrive un ascoltatore. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e diamo quindi la linea. Poi c'è Carmelo a proposito di nome con noi. Andiamo. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, suona la campanella dell'inizio dell'anno scolastico, poi ritorneremo sulla carrellata dei vostri nomi perché avete aderito al nostro appello in maniera prorompente, direi, ma ci torniamo se l'argomento vi ha divertito così tanto. Andiamo ad un altro argomento che magari in queste ore sta divertendo un po' meno tutti i ragazzi d'Italia, che sono pronti, insomma, a rimettere mano alla cartella e a ritornare a scuola. Ieri il via c'è stato alle lezioni per i 70.000 alunni altoatesini, per tutti gli altri studenti la prima campanella del nuovo anno scolastico, lo sapete bene perché già abbiamo fatto un punto della situazione nei giorni scorsi, suonerà la prossima settimana. Secondo i calendari scolastici deliberati dalle giunte regionali, ricordiamo ancora, il 12 settembre torneranno tra i banchi gli studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento. Il 14 settembre si rimetteranno lo zaino in spalle i ragazzi che andranno a scuola in Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Sicilia. 3 giorni di vacanze in più spetteranno invece agli studenti di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana, che rientreranno in classe il 15. È possibile che qualche slittamento rispetto alle date decise ci sia nelle 4 regioni colpite dal sisma dello scorso 24 agosto, e quindi Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Ma tra l'altro, Nicoletta, forse vale la pena fare un saluto ai ragazzi che in questi giorni stanno sostenendo il test per l'ingresso all'università. Sono in tanti. Ieri abbiamo parlato anche con il professor Mantovani dei ragazzi che avrebbero sostenuto, dovevano sostenere, era ieri il test di ammissione di medicina. Con delle domande sempre, oggi riportano i giornali molto originali a dir poco, quindi si stanno cimentando in prove davvero difficili. Mi pare che oggi sia il giorno degli aspiranti veterinari, domani invece tocca ad architettura. Sì, me l'hai detto tante volte. E poi sono spaventata dei 52 esami, non ce l'avrei mai fatto, fatto scienze politiche. Allora, oggi però non parliamo di università ma di scuola. Appunto, all'inizio dell'anno scolastico è un momento delicato, importantissimo per tutta la famiglia. Noi oggi lo affronteremo per tutta l'intera durata di Cuore Denari da molteplici punti di vista, partendo intanto da questo piano straordinario di mobilità degli insegnanti che è in corso in tutta Italia. Ne parleremo anche dal punto di vista dei ragazzi e degli studenti. Poi più tardi ci dedicheremo anche ai temi che stanno a cuore Denari, a partire dall'impegno economico che si deve sostenere in queste settimane, con un focus in particolare sui libri di testo. Invece Nicoletta, per i temi di cuore, o più specificatamente di cuore, cosa approfondiremo? Anticiperemo naturalmente, lo anticipiamo ai nostri ascoltatori, parleremo della relazione, perché si creano inevitabilmente delle relazioni con gli insegnanti, tra l'insegnante e lo studente, e naturalmente tutti noi genitori abbiamo la preoccupazione che il nostro bambino, indipendentemente dall'età, si trovi bene a scuola con i compagni e con l'insegnante. E quindi cercheremo di così approfondire questo aspetto, e anche della preparazione all'ingresso nella scuola, il corredo scolastico. Quanto spendiamo ogni anno, le richieste degli insegnanti, il pennarello, la matita e i quaderni e lo zaino che bisogna comprare. C'è sempre poi l'annoso problema degli zaini pesanti sulla schiena dei nostri bambini, fanno venire la scogliosi, sì o no? Insomma, declineremo un po' questi temi insieme ai nostri esperti. Intanto aspettiamo naturalmente le vostre domande, le vostre esperienze. Allora partiamo però con le notizie sulla scuola che hanno animato la cronaca nelle settimane estive. Ringrazio per essere con noi questa mattina Giovanni Vinciguerra, direttore di tuttoscuola.com. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Tutto Scuola, lo dobbiamo ricordare, è il mensile per insegnanti, genitori, studenti, ed è una rivista appunto dal 1975, quindi di lunga e provata esperienza, diffusa nelle scuole di tutto il territorio nazionale. E poi c'è naturalmente anche il portale che vi accompagna e che vi permette di distribuire al meglio tutte le vostre inchieste. C'è questa che ha fatto molto rumore negli ultimi giorni. Direttore, partiamo però da questa considerazione. Quella che stiamo vivendo è una fase molto calda per la scuola, con decine di migliaia di docenti, dirigenti scolastici, commissari, personale amministrativo, tutti impegnati a preparare questo nuovo anno scolastico, ma soprattutto a gestire e affrontare con un certo disappunto di molti questo super piano di mobilità sul territorio del corpo insegnante. E la questione è stata sintetizzata in questa conclusione: gli insegnanti che hanno origini meridionali e che negli ultimi anni hanno lavorato in varie regioni d'Italia vogliono tornare al sud, ma non ci sono cattedre a sufficienza, e sotto accusa sarebbe finito questo algoritmo del Ministero della Scuola, appunto dell'Università della Ricerca. Ci vuole riepilogare cosa è successo e perché sono state usate anche delle parole pesanti come deportazioni? Direttore. Sì, quello che è successo è che negli anni si è spostato il baricentro della scuola italiana verso nord. E in questo fenomeno di mobilità quest'anno, di trasferimento dei docenti, che riguardava circa 40.000 cattedre, di cui 16.000 al sud, quindi circa il 37%, il numero di studenti, di docenti invece meridionali interessati a questo trasferimento era di 33.000, quindi circa il 78% di questi docenti interessati. Pertanto va da sé che era impossibile assegnare 33.000 docenti meridionali nei 16.000 posti disponibili al sud. E perché questa fotografia di questa situazione ha suscitato così tanto clamore, Vinciguerra? Si è parlato molto, si sono usati termini forti che rappresentano un po' anche un nuovo lessico nella scuola, cioè dal caro libri al corredo scolastico si è passati a parlare appunto di deportazione, di mobilità straordinaria e così via. In realtà quelli che ho presentato sono dei dati statistici che dietro hanno dei fenomeni sociali e demografici sociali evidenti che vengono da lontano. Quindi negli ultimi 18 anni il numero di studenti nelle regioni meridionali si è ridotto di circa 500.000 e nelle regioni del centro-nord si è incrementato di circa appunto 500.000 anche. Quindi c'è stato uno spostamento, e d'altro canto le persone che ambiscono a questo mestiere, quindi a diventare insegnanti, sono ormai da anni per circa l'80% di origine meridionale. Ecco. Questo per motivi, appunto, dicevamo, anche sociali perché e culturali, quindi sappiamo che c'è meno disponibilità, meno possibilità di occupazionali al sud, e quindi molti si indirizzano verso il pubblico impiego, in particolare verso la carriera, certo, docente. Direttore, abbiamo 40 secondi di tempo, poi magari la trasferiamo anche nella seconda parte della trasmissione, ma in 30 secondi ci riesce a spiegare perché è finito sotto accusa questo famoso algoritmo del Ministero dell'Istruzione? Diciamo, perché il meccanismo è sicuramente molto complicato. Noi non sappiamo se poi in questo algoritmo ci fossero degli errori o meno, però va detto che neanche Einstein poteva inventare un algoritmo che rispondesse a quell'equazione di cui abbiamo parlato prima, quindi quel grande squilibrio che c'è tra posti e origine dei docenti che ambiscono a quei posti. Allora ci fermiamo, abbiamo adesso il radiogiornale, poi torniamo insieme anche agli ospiti che ci raggiungeranno più tardi. Chiedo appunto a Giovanni Vinciguerra di rimanere con noi per spiegare un po' meglio questo tema, poi Nicoletta anche magari un piccolo focus lo faremo sulla mobilità degli insegnanti di sostegno, no? Certo. Perché anche questo è un tema, vogliamo capire qual è la situazione in questo ambito e che cambiamenti potrebbero esserci per gli studenti per i quali è previsto questa forma di sostegno. Il giornale radio, torniamo tra il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il moto che finisce, e il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, e poi tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15:30. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. Cuore e denari. Sì. Riprendiamo sulle note di questo valzer. Perché? Perché parliamo del valzer degli insegnanti. Il 74% dei docenti sono al sud, ma nel meridione ci sono solo il 39% degli studenti. Il 54,3% di questi insegnanti è stato trasferito altrove, ovviamente con grandissimo disappunto della maggior parte di questi, perché trasferirsi è costoso, e c'è subito già chi segnala la propria lamentela. Infatti, a proposito, grazie, ci scrive che a proposito dei docenti che devono migrare al nord, loro sì, malgrado, si chiede anche quale sarà la qualità del loro lavoro e del loro insegnamento. Infatti, per un insegnante anche preparato e competente, ci scrive la nostra ascoltatrice, la motivazione e l'entusiasmo sono fondamentali. Ne parleremo perché avremo proprio con noi un insegnante, e soprattutto si chiede quale sarà la continuità, perché immagino il fiorire di aspettative, permessi per poter tornare alle proprie famiglie. Giovanni Vinciguerra, direttore di tuttoscuola.com, chissà quante testimonianze simili a questa riceve la vostra redazione. Allora, magari ce lo racconti, direttore, ma volevo completare con te il ragionamento sul famigerato algoritmo del Ministero dell'Istruzione che assegna i trasferimenti e le cattedre, perché tanta polemica attorno a questa modalità che ci pare indubbiamente un po' fredda, e poi ti chiederei se puoi anche un commento sulla mobilità degli insegnanti di sostegno, se è un fenomeno altrettanto forte e vivace come quello per gli insegnanti, diciamo, tradizionali, normali. Giovanni. Sì, l'algoritmo è stato introdotto quest'anno per assegnare i docenti oggetto della mobilità, e si stanno registrando moltissimi casi anomali che vengono segnalati dagli insegnanti, riportati dai sindacati. Quindi c'è da capire quanto questo algoritmo abbia funzionato, sempre però tenendo presente quello che dicevamo prima, e cioè di questo squilibrio che c'è tra il numero dei posti disponibili al sud e quello del numero degli studenti che sono di più al nord. Riguardo ai docenti di sostegno, sono ugualmente diciamo impattati da questa cosa, anzi lì il tasso, per così dire, di precarietà è molto più elevato, anche se va detto che è stato ridotto molto, nel senso che alcuni anni fa era ancora più elevato e quindi si sta stabilizzando gradualmente, però c'è ancora un'incidenza maggiore rispetto ai posti comuni. Un altro fenomeno sempre legato indirettamente diciamo alle questioni della, per così dire, della disabilità che stiamo registrando è quello dell'utilizzo della legge 104, cioè dalle notizie che ci arrivano sembra che siano molti i casi nei quali i docenti magari assegnati in una scuola lontana dalla propria diciamo residenza stanno presentando diciamo domanda di questi permessi per prendersi cura di pazienti non di familiari non autosufficienti o comunque in condizioni di salute precarie. Ci sono molte notizie su questo, Giovanni, veramente tanti punti. Parlando di scuola potremmo aprire mille parentesi, mille fronti, tutti degni del concorso anche, esatto, che, infatti, che è stata una, guarda, non ce la facciamo ad approfondirlo. Detto questo, mi premeva in particolar modo un po' contestualizzare il tema scuola con la grande polemica di quest'anno, questa appunto dei trasferimenti ribattezzati anche come delle vere e proprie deportazioni, pur essendo veramente dalla parte di quegli insegnanti che devono trasferirsi, come dire, reinventarsi la propria vita con uno stipendio che è quello che è, che conosciamo, che non li valorizza, esatto, per nulla. Quindi questo è un tema enorme serio che richiede soluzioni strutturali, certo, anche se appunto magari non si può parlare né di deportazione, esatto, né di esodo forzato. Però è un problema di cui il Ministero deve farsi carico con grande serietà. grazie Giovanni Vinciguerra, direttore a di voi. tuttoscuola.com, ribadiamolo, perché c'è chi va cercando con esatto. .it e non vi trova. Errore. Esatto. Mi raccomando. Allora, il Balzer che manda in ansia i genitori, ma... Chissà come se la vedono e se la passano i ragazzi. Intanto voglio ricordare subito il nostro numero verde, se siete ragazzi, 800 24 00 24, vi state preparando all'ingresso a scuola, genitori di ragazzi, e sapete già che o temete che vostro figlio cambi gli insegnanti, quanti ne ha cambiati negli anni scorsi, il numero è sempre lo stesso, ma noi abbiamo i nostri ragazzi. Altro che i nostri, come dire, chiamiamoli così, un po' colleghi reporter del settore radiofonico. Allora io volevo salutare e ringraziare Alessandro e Linda, sono due ragazzi che fanno parte della redazione di Radio Immaginaria, con cui Radio 24 fa tante cose interessanti. Alessandro fa parte della redazione di Salerno di Radio Immaginaria, Linda di quella di Milano. Alessandro, ciao, eccolo qua, buongiorno. Linda, ci sei anche tu? Ciao, buongiorno a tutti. Allora, magari ricordiamo che cos'è Radio Immaginaria, Nicoletta. Sì, la descrizione che troviamo sul sito www.radioimmaginaria.it parla molto chiaro. È la prima e unica radio di adolescenti in Europa fatta, diretta e condotta dai ragazzi che hanno tra gli 11 e i 17 anni. E esatto. Soprattutto è una cosa bella perché dei contenuti, come si dice, nessuno si impiccia. Nessun e quindi, adulto. Ecco, fate un po' quello che volete. Linda, cominciamo con te. Sì, esatto, noi facciamo quello che vogliamo, parliamo con il nostro linguaggio, che non è il linguaggio appunto degli adulti, e vogliamo far sentire la nostra idea, perché vogliamo dimostrare che noi un'idea ce l'abbiamo, abbiamo dei progetti per il futuro e vogliamo dimostrare al mondo degli adolescenti, ma anche degli adulti. Magari vogliono venire anche a fare vogliono venire anche a fare cuore e denari, chissà. Ma dai, noi vi aspettiamo. Allora, ragazzi, io ho una proposta per voi, dato che siete adolescenti parlanti. Nel corso di questa puntata dedicata alla scuola potreste anche commentare naturalmente gli argomenti che toccheremo, ma non solo. Ci farete, e mi piacerebbe, anche un po' da traduttori e interpreti delle cose che spesso gli adolescenti non dicono o che raccontano con monosillabi. Non so se capita anche a voi a casa. E quindi, genitori, all'ascolto, se volete farvi dare una mano dai nostri ragazzi, da Linda e da Alessandro, loro faranno anche i traduttori. Alessandro, ci stai? Sì, ci sono. E quindi, prima di tutto, raccontateci che cosa vi aspetta per l'anno scolastico che si apre. Manterrete i vostri insegnanti? Alessandro, tocca a te. Allora, io dovrò fare il terzo liceo, che sappiamo tutti comunque che è l'anno più difficile per uno studente liceale. sarebbe il primo liceo, perché io sono al classico, quindi quarto e quinto ginnasio. Dai, però cambiato... ti sei già tolto paradigmi, la grammatica, eccetera, no? Sì, però... Però le traduzioni. No, va bene. Cambierò almeno quattro insegnanti, quindi italiano, storia, latino e greco, quindi c'è una vera e propria rivoluzione. Sì. Però prevista. Può essere una cosa utile per magari chi non si è trovato bene con un determinato insegnante, chi magari non accetta quel metodo di studio e quindi magari cambiando insegnante si troverà anche meglio. Certo. Linda, invece, per quello che riguarda te e la tua vita scolastica, insomma, quest'anno in che classe ti cimenti? Anch'io faccio il liceo classico e devo andare in quarta invece. Quindi cambiamento già fatto l'anno scorso. Sì, come diceva Ale, cioè, io ho avuto un po' di difficoltà io e i miei compagni, perché in terza si sa che si cambiano i professori. Però adesso ho appena visto, ad esempio, lo schema delle mie cattedre dell'anno prossimo e sono praticamente cambiate tutte, in ogni caso, anche se devo andare in quarta liceo i professori dovrebbero rimanere più o meno gli stessi. E secondo me, appunto, si parla tanto del problema per gli insegnanti che si devono trasferire, devono cambiare, ma è un problema anche per noi studenti, perché una volta che, cioè, ad esempio, io l'anno prossimo cambierò per la quarta volta la mia professoressa di latino, che è un grosso problema, perché comunque ogni volta bisogna ricominciare, perché naturalmente il professore non sa a che punto siamo arrivati, ha un diverso metodo di insegnamento, un diverso metodo di verifica. E una sensibilità diversa anche nella relazione con voi, certo. Sì, non si riesce a instaurare un rapporto, cioè il rapporto instaurato in un anno poi bisogna ricominciare da capo, quindi... Insomma, la continuità e la stabilità con gli insegnanti per tante ragioni è auspicabile. Esatto. In linea, vogliamo commentare, abbiamo detto, questo aspetto con tanti ospiti e non poteva mancare Alberto Pellai, che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, Deborah, buongiorno a tutti. Inizio con le qualifiche, no Alberto, perché ormai sei amato da tutti, con super conosciuto, psicoterapeuta, medico, scrittore. Alberto, padre di quattro figli, tra l'altro tuo figlio al liceo, so che gli insegnanti li cambierà tutti, quindi girerà pagina. Però Alberto, abbiamo sentito Linda, no? Che dice in effetti cambiare è un ricominciare sempre, e devi riprendere in mano la situazione, ti devi adattare ad un nuovo metodo di studio, a delle altre richieste. Ma è sempre e comunque un ostacolo, o potrebbe essere anche un'opportunità? Ci aiuti un po' a entrare nella testa di un ragazzo? Ma, dal punto di vista delle neuroscienze, naturalmente, perché tu ragazzo lo sei, ma non più, ecco. Certo, direi che incontrare un nuovo docente è sempre da una parte una zona oscura, una zona grigia, credo che tutti. Io per esempio, di fronte alla lista di nuovi nomi di docenti di mio figlio e parlando con lui, effettivamente sento che poi la raccolta di informazioni informale, no? Nei gruppi WhatsApp è bravo o è cattivo quel docente? Questa è la domanda, nel senso che è molto severo, darà tanti compiti, ma poi è implicito invece che nella trama quotidiana, della quotidianità, un docente non è solo i voti che dà, è chiaramente il metodo didattico che utilizza, ma credo anche che è il saper stare in relazione con i ragazzi. Credo che la dimensione della relazione è probabilmente lo scoglio più grande in un cambiamento, perché c'è bisogno di un tempo di conoscenza, quel docente deve in qualche modo impossessarsi delle dinamiche che si vedono e delle dinamiche anche che non si vedono in un gruppo classe e che possono essere conosciute soltanto con una frequentazione che necessita di tempo. Per i ragazzi però penso anche che sia una grande opportunità, cioè aumenta proprio la flessibilità di pensiero, confrontarsi a volte con metodi differenti, anche di insegnamento diversi, da una parte è una grande fatica, ma l'adolescenza in termini di neuroscienza è proprio quella zona della vita dove la diversità di metodo può promuovere l'utilizzo di reti neuronali diverse rispetto a quelle usate l'anno precedente, e il nostro cervello mantiene attive solo le reti neuronali che vengono stimolate e attivate. create dalle interazioni e dagli stimoli che provengono dall'esterno. Quindi potrebbe essere che un nuovo metodo di studio, un nuovo insegnante, un nuovo modo di stare in relazione aumenta la complessità dell'architettura neuronale del cervello dell'adolescente. Insomma, questo è un invito anche che facciamo ai genitori a vederla in maniera positiva qualche volta, appunto questa condizione di cambiamento continuo. Devo dire che gli ascoltatori e i genitori che ci scrivono invece sono particolarmente preoccupati del tema continuità didattica. Stefania ci scrive: mia figlia il primo anno di liceo scientifico ha cambiato 4 insegnanti diversi di matematica circa ogni 2 mesi, ora va in terza, rispetto alle altre classi sono ancora indietro di circa un terzo del programma. Quindi adesso ci siamo messi dalla parte dei genitori, però direi di continuare, Nicoletta, mettendoci anche da un'altra parte. E certo, vogliamo metterci dalla parte degli insegnanti, perché anche loro cambiano classe, si trovano magari catapultati davanti a decine di studenti di cui conoscono poco nulla, con cui devono imparare a entrare rapidamente in relazione, perché, e gli insegnanti lo sanno bene, si insegna con tutto, con gli sguardi, le parole, i silenzi, le correzioni, i voti, i votacci. È una lezione questa che ho imparato ascoltando i racconti di un'amica marchigiana, insegnante di lettere, che ha anche una parentela molto stretta con noi di Cuore Denari, perché è la sorella minore della donna di Denari. Abbiamo il piacere di avere con noi in linea Morena Rosciani. Ciao! Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Mi ha salutato per prima, certo, vedi? Anche perché adesso io mi eclisso, non voglio entrare in conflitto di interessi. Senti Morena, allora, devo dire che ho sudato 7 camicie per portarti in diretta, ma ce l'ho fatta. E sì, noi volevamo... sei abile nell'arte della persuasione, proverò questa ebbrezza stamattina della diretta. E c'era scritto anche nel nome, lo sai, noi stiamo facendo questo giochino con i nomi, è Laura Vanossi che è andata a cercare nel significato dei Morena. Nomi e quindi vedi, di nuovo ritorna il nostro. Vabbè. Morena, cosa significa anche per un insegnante cambiare classe, a volte anche scuola? Sì. Guarda, è una domanda proprio pertinente a questo inizio di anno scolastico, in quanto proprio in questi giorni si sta svolgendo il cosiddetto toto cattedre, che è un po' un rito all'inizio di ogni anno. Io parto da quella che è stata la mia esperienza di precaria pluriennale. Io per 12 anni ho fatto precariato e non mi sono trovata a cambiare soltanto classe, ma io ho cambiato sempre, quasi ogni anno, anche dirigente, scuola, colleghi, quindi con uno spirito di adattamento ed una flessibilità proprio camaleontici. Da 2 anni sono di ruolo, quindi non ho più questo, diciamo, problema, ma comunque le classi ruotano e cambiano. Devo dire che reputo il cambiamento sia un rischio che un'opportunità. Opportunità, sì. Il rischio c'è sempre in ogni relazione educativa, no? Esatto, c'è sempre in ogni relazione educativa. Sono pienamente, mi trovo proprio in sintonia con le parole di Pellai che mi ha preceduto, che ogni processo di apprendimento parte da una relazione. Se manca la relazione tra insegnante e studente, non c'è apprendimento, o è un apprendimento molto sterile. È un'opportunità grande, perché il cambiamento comunque è sempre un momento di crisi, e la crisi è, come ci dice l'etimologia della parola, è comunque un andare a fondo, un andare a ripescare qualcosa nel nostro sacco, un andare a rivedere quelle che sono le motivazioni originali che ci hanno spinto come insegnanti a scegliere questo lavoro. Che è una vocazione, diciamo la verità. Sì, penso proprio di sì. È una vocazione impegnativa e a cui uno deve proprio dare tutto se stesso. Quindi sì, è una grande opportunità e anche un grande rischio, ma soprattutto un'opportunità. Sono molto positiva. Senti, e c'è anche l'emozione del primo giorno di scuola, degli inizi, sia per i ragazzi sia per gli insegnanti, immagino. Sì, guarda, io mi sento sempre una novella nel centro, una novella insegnante, perché io ogni volta che mi trovo a varcare la soglia della classe mi prende proprio il batticuore o la tachicardia, ma davvero, ho il cuore in gola. Però questo fenomeno che mi accade mi fa proprio ricordare il mio essere, insomma, umano, e soprattutto mi fa tornare in mente delle parole che mi aveva detto una mia cara amica proprio all'inizio della mia carriera di insegnante, quando mi disse: Morena, stai tranquilla, quando entri in classe tu hai un grande alleato che è il cuore dei ragazzi, che in fondo è lo stesso cuore che ho io e che hanno i grandi, per dire, della letteratura che io amo, quindi che ha Leopardi, che ha Pirandello, che ha Montale. E quindi, partendo da questo punto d'incontro, inizio, insomma, questa avventura affascinante che è ogni giorno incontrare i ragazzi, insomma. Con grande passione, con grande umiltà, abbiamo ieri intervistato il professor Mantovani, che ha scritto questo decalogo per i nuovi scienziati, e sottolineava proprio delle qualità che ritrovo, che tu hai ripercorso, e quindi è la passione per seguire i propri sogni, la passione, il coraggio, perché ci vuole anche la determinazione. Alessandro D'Avenia, che noi conosciamo bene, che anche Alberto, abbiamo fatto delle bellissime puntate in una sua intervista, che Morena ha portato tra i suoi studenti anche per invogliarli alla lettura, perché sappiamo che non sempre si cimentano magari molto volentieri, no, nelle letture, come dire, tra virgolette, moderne. So che Morena, insomma, ha fatto anche questa opera di persuasione fra i suoi studenti per la lettura, portando lui, infatti. E riprende nella sua intervista che nella relazione scolastica ci sono tre elementi indispensabili: amore per ciò che si insegna, amore per il chi a cui si insegna, perché questo è anche molto importante, amore per il come. Quindi ci sono questi tre ingredienti. Senza questi tre elementi la relazione non si dà e genera controeffetti. Da quanto tu ci hai raccontato, mi sembri assolutamente allineata con il D'Avenia pensiero, Morena. Sì, assolutamente sì, D'Avenia per me è un modello, un mito, insomma, qualcuno a cui guardare e da cui prendere, insomma, fiato ogni tanto. Questa sua sintesi è eccezionale, è veramente bella, vera, la appenderò anche in aula insegnanti. Diciamo che nel nostro percorso di preparazione, sì, dovrebbe essere quasi scontato l'amore per ciò che studiamo, no? Però in realtà col tempo uno può anche perdere questa passione. L'importante è sempre ritrovare nuovi stimoli, nuovi obiettivi, cercare sempre comunque di ritornare a ciò che ci aveva colpito, nel mio caso ciò che mi aveva affascinato degli autori che amo. Il come, l'amore per il come, cioè il metodo di insegnamento, il nostro fare didattica concreta, è un qualcosa che ci viene continuamente richiesto di aggiornare anche dalle scuole in continuazione, quindi c'è già lo stimolo. Il punto più difficile secondo me è il secondo, proprio l'amore per chi si incontra ogni giorno, che è appunto, no, questa posizione di apertura nei confronti di chi è anche altro da noi, è diverso da noi, quindi non è come ce lo immaginiamo noi, è un'altra persona, è un'altra libertà che va appunto incontrata. Sicuramente è difficile, ma si può fare, insomma, si può fare. È come il titolo di un programma di Radio 24, esatto, di grande successo. Io vorrei allora chiedere a Linda e ad Alessandra a questo punto di dare un voto. Questa volta siete voi a dare un voto a questa insegnante. Aiuta a cominciare bene l'anno, Linda. Allora, questa insegnante, stiamo parlando della signora che ha appena parlato? Sì, certo. Ok, scusate. Sì, io darei un bel voto a questa insegnante, soprattutto perché ha ammesso il fatto che il primo giorno di scuola, oppure quando deve conoscere una classe, si sente anche lei in ansia, perché in effetti noi studenti siamo proprio con gli occhi puntati, pronti a giudicare i professori appena mettono piede nella classe. E quindi già ammettere questa cosa mi piace. Cioè, voi ne avete molti... uno da digerire, ma loro ne hanno invece una classe di 25, cioè 50 occhi che ti guardano. Esattamente così, però noi già prima, il giorno prima, nei gruppi di WhatsApp commentiamo tutti i professori della scuola per vedere chi verrà da noi oggi. verrà domani. Cioè, è proprio una guerra anche per noi. Comunque loro hanno 25 ragazzi, però noi comunque abbiamo una decina di professori, quindi la guerra è iniziata. Cioè, non facciamo. Allora, Alessandro ha dato già subito all'inizio la guerra. Meno male che abbiamo Alberto Pellai, esatto, che ci porterà a fare giudizio, meno bellico, ecco. perché con lui leggeremo un po', no? Su che cosa ci raccontano anche le neuroscienze per essere anche genitori migliori. Questo è così la sfida del suo ultimo libro, di cui parleremo, perché parleremo anche dei genitori che a volte si mettono di mezzo e questo impediscono che questa alleanza genitori, che è genitori, studenti e professore, funzioni. Alberto, anche di questo parleremo, perché anche i genitori possono essere determinanti nel bene e nel male. Ma lo sono tantissimo e tante volte bambini fin dalla scuola elementare entrano nel loro primo giorno di scuola avendo ascoltato tonnellate di commenti dei genitori rispetto al maestro, alla maestra che andranno ad incontrare, e che vengono proprio narrati magari con stereotipi, con pregiudizio, con commenti che sono raccolti nella comunità informale del mondo delle famiglie, che parla di quel maestro che avrà il mio bambino o la mia bambina, avrei voluto questo, avrei voluto quell'altro. Ecco, tutto un mondo che secondo me entra nel bambino e spesso rischia anche di distoglierlo dal poter sentire il suo maestro, il suo docente per quello che è e non per quello che la mamma o il papà gli dicono che deve essere. Quindi i bambini si fanno condizionare dai genitori, i ragazzi, come ci ha scritto Alessandro, si condizionano reciprocamente, esatto, perché parte su WhatsApp e parte, eccetera, una valanga che ma non adesso termina parte più. Anche la borsa, la borsa, poi parleremo anche di soldi, del portafoglio, di quanto costa il corredo scolastico, ma soprattutto la dotazione di libri, che è, come dire, la quota più impegnativa. Salutiamo anche mia sorella nel frattempo, che deve Morena. Tornare dai suoi di figli, che Morena, pure ti abbraccio, torna ciao, presto, grazie, a trovarci. Non grazie. Ti dico quanti messaggi sono arrivati, esatto, al 349-238-6666 di apprezzamento per Morena, per le tue parole, tanti 10 e lode per te. Un abbraccio e buon inizio. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Sembrerebbe proprio così, chi se ne frega della crisi quando si parla di scuola, gli italiani non badano a spese, in particolare per quanto riguarda i libri di testo. Il bel paese resta ancora infatti ancorato alla tradizione, la maggioranza degli studenti pensa di ricorrere al nuovo anche se cambiano i modi in cui ne avviene l'acquisto. Tutto ciò emerge da una ricerca di scuola.net, scuola con la K, se volete cercare il sito di questo grande osservatorio che ormai viene sempre interpellato per tutte le tematiche scolastiche. È una ricerca condotta su più di 6.000 studenti di scuole medie e superiori. Buongiorno a Carla Ardizzone di scuola.net. Carla, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, avete osservato dati particolarmente significativi. Allora, quasi 2 studenti su 3 avranno sui banchi libri prevalentemente nuovi. Cosa ci dice questo dato, Carla? Ecco, diciamo che questo dato ci fa capire che il mercato del nuovo dà nuove possibilità a tutti i ragazzi e le famiglie che si rivolgono ad esso, perché sta cominciando a salire, diciamo, la richiesta su siti e-commerce e ipermercati rispetto alle classiche librerie. Per quanto riguarda i nostri dati, addirittura per il primo anno, da almeno 3-4, è scesa sotto al 50% la percentuale di chi si rivolgerà alle quattro librerie piuttosto che a siti di e-commerce o ai ipermercati. Quindi diciamo che è questa la tendenza, nuovi modi di acquistare. Mm-hmm. E ci sembra appunto una tendenza abbastanza forte, dirompente, insomma, quella che viene fuori dalla vostra indagine. Peraltro il motivo, e questo forse è un punto sul quale vale la pena soffermarci un attimo, Carla, il motivo della tendenza sta nel fatto che è stato abolito il blocco delle adozioni da parte delle scuole. Ci spieghi esattamente tecnicamente che cosa significa e che incidenza ha avuto anche nelle nuove modalità di scelta dei libri di testo e di acquisto? Beh, diciamo che il blocco delle adozioni impediva a docenti e case editrici di cambiare le edizioni dei libri di testo per 5 anni alle scuole primarie e per 6 alle secondarie. e questo ovviamente e naturalmente favoriva il mercato dell'usato. E con questa abolizione del blocco e parallelamente la possibilità di avere degli sconti per quanto riguarda l'acquisto di libri nuovi online o tramite offerte soprattutto di ipermercati e supermercati, ecco che il nuovo comincia ad avere una certa convenienza, perché spesso gli sconti di cui si può avere diritto sull'e-commerce, sugli ipermercati, sotto buoni acquisto o semplicemente per offerte, possono arrivare al 15%. Certo. Sul nuovo. Avete fatto un calcolo, Carla, anche di quanto si spende in media, non lo so, per esempio per l'inizio delle scuole medie, per l'inizio di una scuola secondaria, per l'inizio di un liceo, insomma esiste anche un budget di riferimento per ogni inizio, perché poi è il primo anno quello sempre più pesante, poi negli altri magari Beh, un pochino. Sì, il primo anno è sempre più pesante, sicuramente si può arrivare a picchi di 500 euro e cose... Solo per i libri, naturalmente, ricordiamolo. Solo per i libri, a picchi comunque di... Certo, perché se addirittura magari un ragazzo si affaccia al primo giorno del liceo classico, ci sono delle spese per i dizionari che non sono indifferenti. Quindi ecco, si parla di centinaia di euro solamente per i libri. Per fortuna, diciamo, esistono delle iniziative anche da parte delle scuole, come ad esempio le banche dei libri, che possono favorire questi degli scambi, diciamo, tra certo. studenti e tra scuole e studenti. Grazie, insomma. Grazie a Carla Ardizzone per essere stata con noi. Volevo segnalare che, per esempio, Findomestic dice che l'acquisto di libri di testo di letture e dizionari rappresenta il 68% della spesa complessiva della dotazione appunto scolastica che devono affrontare in questo momento le famiglie italiane, e complessivamente il ritorno sui banchi di scuola per questo osservatorio costerà circa 580, quindi quasi 600 euro. Perché ho voluto sottolineare soprattutto questo osservatorio? Perché Findomestic è una società di credito al consumo. Questo si dice che se loro monitorano questa spesa vuol dire che le famiglie fanno dei prestiti pure per affrontare questo momento dell'anno, per cui anche questo forse è un aspetto che ce la dice lunga. Anche Alessandro, che farà il prima classico, quindi dal ginnasio si sposta al liceo, sì. Quest'anno i tuoi genitori dovranno affrontare una bella spesa. Alessandro. Alessandro di Radio Immaginaria. Sì, sì. Quanto? Di sì. Linda, invece, a casa tua, insomma, un ragionamento sul budget da destinare all'inizio dell'anno scolastico, come è stato affrontato? Allora, io devo andare in seconda liceo, appunto. Sì. Noi, cioè, da 2 anni a questa parte abbiamo trovato, io ho trovato questo metodo che secondo me è molto conveniente. Prima di tutto perché qualche anno fa andavo ad esempio con mia madre in libreria, file lunghissime per aspettare i libri che poi non erano neanche arrivati, iniziavi la scuola senza libri così, e tra l'altro si spendevano davvero tanti soldi se volevi i libri. Adesso nuovi. Ti muovi prima? No, adesso mi muovo prima, ma soprattutto li compro su internet. Uso Amazon e la cosa bella è che si possono trovare un sacco di offerte, perché puoi confrontare i prezzi sia tra il nuovo che tra l'usato. E poi ti arrivano anche a casa, quindi non devi neanche spostarti e andare a prenderli. Loro sanno già le scuole di che cosa hanno bisogno e quindi offrono un po' tutto il pacchetto della dotazione libraria, con credo che ci sia circa il 15% di sconto rispetto al prezzo pieno. Esatto, ho anche altre amiche esatto. che me l'hanno raccontato. Ci sono anche alcuni ragazzi che vendono trovare... i libri, quindi... Alessandro, cosa? Ci sono anche alcuni ragazzi che vendono i libri magari dell'anno prima, quindi... Esatto, sì, il tema dell'usato con gli appunti, con gli appunti, con gli esercizi fatti, Alessandro. No, mi sa che Alessandro diciamo di usare la matita e cancellare se sì, dopo non vabbè, non ma chi la racconti, dai. Allora, Alberto, tu quattro spese libri. È una cosa significativa e non si è ancora ripreso. No, in realtà poi oltre all'impatto economico è proprio anche l'organizzazione, cioè io credo che per una famiglia, noi per esempio, vedo anche mia moglie Barbara, ha bisogno un po' di un'intera settimana, la settimana che precede la scuola di solito è una settimana che deve essere sgombra di impegni, perché avviare l'anno scolastico è davvero un mestiere dentro una famiglia con molti figli, quindi effettivamente c'è questo aspetto delle spese molto numerose che devono essere fatte, dell'organizzazione della vita dei figli, trasporti per esempio, quando si va alle superiori bisogna occuparsi di come si muoveranno i nostri figli, comprare comprare gli abbonamenti, organizzarsi con altri genitori. E poi la, non so se, ma credo che tanti genitori si possano riconoscere, la preparazione dell'astuccio con i pastelli, i pennarelli, tutto deve essere temperato, le gomme, i temperini, i righelli, le squadre e via dicendo, insomma è insomma, un perché abbiamo parlato, è un mestiere quello dei genitori, le neuroscienze aiutano a farlo meglio. Voglio ricordare il libro fresco di stampa di Alberto Pellai, L'educazione emotiva, come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze. Tra l'altro sul nostro sito mettiamo, per i genitori che sono alle prese con il vero grande inizio, l'inizio del percorso che è l'ingresso alla scuola dell'infanzia, i consigli di Alberto Pellai e anche le cose da fare, le cose da evitare. Ma vi invitiamo, se avete bambini piccoli e quindi se siete genitore alle prime armi con la scuola, di mandarci le vostre richieste, i temi che vi stanno particolarmente a cuore, perché vogliamo raccogliere e dedicare un approfondimento partendo proprio con l'aiuto di Alberto, che ci darà tanti consigli, ma ci racconterà come le neuroscienze aiutano a superare le difficoltà che ogni genitore incontra e non finiscono mai, perché come si dice gli esami non finiscono mai. Ma noi riusciremo a superare. Eppure tanti genitori si sentono soli in questo percorso, come se non riuscissero a condividere, no, in realtà le medesime preoccupazioni con gli altri, quindi secondo me è un bello stimolo anche in questo senso. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, vi parliamo poi, abbiamo un'amica che ci racconta, no, i genitori che si alleano, che fanno gruppo. Quando cambia un professore non ci stanno. Però ci sono professori che lasciano il segno, ciascuno di noi ne ha avuto uno, chissà come si chiamava a proposito. Tra l'altro il significato di Alberto è molto illustre, mi segnalano con quei 2-3 libri che scrive. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme, ultima parte di Cuore Denari, che oggi è dedicata alla ripresa scolastica, sì. Quindi un bel impegno per gli studenti. Abbiamo Linda e Alessandro di Radio Immaginaria che sono pronti a raccontarci come la stanno vivendo. Mi sembrano però abbastanza tranquilli. Sono molto tranquilli, ma addirittura loro guardano al futuro, se solo consideriamo che stanno mettendo in piedi una grande iniziativa prevista proprio per i prossimi giorni a Castel Guelfo in provincia di Bologna. Si chiama la Team Parade. Allora Alessandro, comincia a raccontarcela tu, so che incontrerete anche il Ministro del Lavoro, perché proprio del vostro futuro professionale vorrete parlare. Sì, assolutamente. Allora, la Team Parade sarà un evento fantastico e ci divertiremo un sacco, perché soprattutto per questa cosa il lavoro spiegato ai ragazzi, che si svolgerà dentro questo case cube, questi case cube che sono vari, dove ci saranno vari esperti di vari campi lavorativi, dove ci faranno vedere e testare con mano cosa vuol dire quel preciso lavoro. Per esempio io lavorerò in un case cube dove ci sono i disc jockey e quindi ci faranno proprio testare con mano cosa vuol dire fare il disc jockey. Magari chi non l'ha mai fatto scopre un talento innato, cose del genere, chi non ha proprio accesso a questi strumenti. Certo. Oppure altri case cube come per esempio anche con dei contest, per esempio l'assemblaggio di questi droni, verrà una ditta che produce questi droni volanti, quelli là telecomandati, che sicuramente ne avete sentito parlare. Certo. Altro che E chi lo monta meglio si può vincerne uno, per esempio. Linda, invece, Dove andrai tu, Linda? Allora, dove andrò? Io sarò a Castel Guelfo, naturalmente. Sì, certo. Dovete venire tutti voi ascoltatori. 9-10 settembre, allora diamo Castel Guelfo di Bologna, il 10 e l'11 settembre, sabato e domenica. E inizierà sabato alle 2 con una super parata. Ci sono un sacco di, appunto, personalità molto importanti. Possiamo fare un esempio, per esempio ci saranno Sade e Clementino, che sono dei rapper, ma anche personalità internazionali. Hai capito chi sono importanti, certo, per loro? Mica Nicoletta e Deborah, no, cioè Clementino. Certo. Il ministro del lavoro, tutto il rispetto per il ministro del lavoro. Però quando c'è vo. E quindi Linda, ma tu in che cosa ti cimenterai? Allora, Alessandro l'abbiamo già sistemato. Io sarò in un box internazionale in cui ci sarà Tony Prince, che non so se qualcuno di voi lo conosce, ma è uno dei più importanti DJ della radio, perché certo, ha fondato Radio Caroline, che negli anni 70, quando c'era soltanto la BBC ed era illegale trasmettere altri contenuti, lui voleva trasmettere musica rock. Allora lui e i suoi amici si sono messi su una nave e hanno fondato la prima nave pirata. Storia di radiofonia internazionale, ottimo. Grande coraggio. Ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di far capire che anche noi abbiamo delle idee per il futuro. Questo è il Festival della Radio spiegato dagli adolescenti, perché spesso voi adulti pensate di aver già programmato per noi il futuro, e anche questa cosa non va bene, perché siamo noi il futuro, siamo noi il lavoro del futuro. E cioè, quello che vogliamo far capire è che abbiamo delle idee e che non è sempre tutto grigio. Cioè, noi pensiamo che comunque ci sia una speranza. Ah, certo. E se magari tanta gente rimane a casa perché perde posti di lavoro, perché adesso sono arrivate le nuove tecnologie, noi non dobbiamo pensare alla gente che rimane a casa, dobbiamo pensare alle persone che dovranno occuparsi di queste nuove queste cose. Linda, voi dovete dirle ai vostri amici NEET, lavori. Tu lo sai, ragazzi che non sono impegnati nel far nulla in questo momento, non per colpa loro, ma hanno anche una profonda demotivazione, per cui forse è quelli che dovete raggiungere, oltre a strigliare ovviamente noi adulti su questi aspetti. E ovviamente ti ringraziamo anche per Alberto. Alberto è un'ottima consulente, Linda, anche per credo che poi lanci davvero il messaggio cruciale del percorso in adolescenza, che è imparare a diventare non quello che la vita ti fa diventare, ma quello che davvero tu vuoi essere. Vedi quanta grinta, quanta determinazione. Quando dobbiamo investire, ma avere fiducia nei nostri ragazzi. Noi genitori ci proviamo sempre, ma insomma, genitori si diventano, si impara a essere genitori, si impara anche a essere adulti. Aiutateci anche voi ragazzi, dateci una mano, collaboriamo, come si dice. Abbiamo un'ultima amica da salutare, è Maria da Milano. Esatto. Maria, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Allora, genitori che aspettano il destino e il futuro dei loro ragazzi, ragazzi che aspettano gli insegnanti, insegnanti che cambiano ruolo, ci sono degli insegnanti che sono particolarmente amati e lasciano il segno e che vorremmo trattenere con noi. Che cosa sta succedendo e che iniziativa avete messo in piedi? Allora, succede una cosa molto semplice. I nostri ragazzi, stiamo parlando di ragazzi che hanno chiuso la prima media nello scorso anno scolastico, avevano un professore italiano, storia e geografia epoca, per cui il professore è quello che faceva tanto. Bravissimo, eccezionale. Ultima riunione, ci viene detto che questo professore è diventato di ruolo nel corso di quell'anno, che ha diritto a una sua cattedra, per cui che verrà trasferito. E va bene. E voi, verrà una bella doccia gelata. Posto, esatto, ma al suo posto non c'è nessuno. Nel senso che la sua cattedra di fatto è occupata da non si è capito chi. Una persona, un professore in aspettativa che è assolutamente un diritto, piuttosto che, insomma, non rientra questo professore. Nessuno ci ha detto chi sarebbe rientrato qualcuno, per cui la cattedra è libera. E voi cosa state facendo? Noi abbiamo fatto abbiamo immediatamente, devo dire, una classe di genitori speciali. Molto attiva. Speciali, incredibile. Abbiamo nel giro di una settimana fatto una petizione, raccolto le firme della stramaggioranza della classe, mandato questa richiesta d'aiuto da Renzi in giù, cioè attraverso il ministro Stefania Giannini, sottosegretari, rappresentanti dei territoriali e regionali, insomma dove siamo riusciti l'abbiamo mandata. Abbiamo fatto una pagina di Facebook, abbiamo attivato, che si chiama Vogliamo il nostro prof, che è fondamentale perché ci sta aiutando tanto. Abbiamo attivato Twitter, insomma stiamo facendo. Vi siete mobilitate, insomma questo stiamo professore facendo... sicuramente sarà molto colpito, onorato di questa grande partecipazione. Maria, che dire, in bocca al lupo. Speriamo. La ringrazio. Si ricordi però che, come dice Alberto Pellai, il cambiamento è anche un'opportunità. E quindi non è detto che non troviate magari un altro insegnante altrettanto bravo. Comunque, auguri. I tuoi ragazzi vogliono lui, per cui lo so, però purtroppo nella vita ci sono delle ogni tanto bisogna, siamo costretti a strappare un po' di radici. Alberto, che dici? Vedi che fa anche rima. Credo che l'hai già detto tu, effettivamente poi non sempre la vita è quello che abbiamo pensato che fosse, spesso la vita accade e in realtà le nostre competenze principali per vivere bene sono quelle non sempre di stare nella routine e nella continuità, ma anche di imparare ad adattarci al cambiamento. L'evoluzione è adattamento al cambiamento, non conferma della routine e della continuità. Scriveteci i temi che volete affrontare con i vostri, per i vostri figli a Cuore Denari, ne torneremo sicuramente a parlare anche con Morena, anche che con Morena. Io conosco bene. Esatto, e anticipo che sfioreremo questo argomento anche domani, perché noi parleremo di educazione finanziaria, quindi di quello che dobbiamo fare per ampliare le nostre conoscenze su questi temi economico-finanziari. Appunto, c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento sull'educazione finanziaria anche nella scuola, per cui vedi che abbiamo una continuità per anche fino a domani. Vedi, la continuità di Cuore Denari è una garanzia. A domani. Buona alle 10:30. Giornata.